piano. Di Enrico Ruggeri. Una delle frasi vere, ma così vere da diventare quasi un luogo comune, recita: dietro a ogni grande uomo c'è una grande donna. E mai un'affermazione è stata più vera come nel caso della protagonista di oggi, che ha dato vita a una coppia inossidabile, la coppia del surrealismo, assieme per 50 anni tra arte, eccentricità, finzione, tradimenti, gloria. Il grande uomo di cui parliamo è Salvador Dalì. La protagonista della puntata di oggi è sua moglie Gala. Nella sua autobiografia l'artista diceva: amo Gala più di mia madre, più di mio padre, più di Picasso e perfino più del denaro. Un tributo innegabile dato da un uomo che ha trasformato la sua arte in una specie di industria seriale. E di questo ha sicuramente grande responsabilità anche Gala, che è stata non solo la musa di Dalì, ma anche e soprattutto, diciamo, agente artistico, promoter, amatissima dal marito. Era spesso odiata da chi li frequentava, e qualcuno ha definito Gala anche come un'arpia. Di lei rimangono dei video rari, molte fotografie in cui appare sempre col suo sorriso enigmatico, misterioso. Non esistono sue dichiarazioni o interviste, del resto non ce n'è bisogno, perché per suo conto parlava alla sua creazione migliore, cioè Salvador Dalì, al quale lei ha dedicato tutta la sua vita. Quella di Gala Dalì è una personalità molto complessa, che non si può liquidare semplicemente come la musa del pittore, anche se Dalì la riteneva fisicamente perfetta, l'ha ritratta in molte sue opere. È una personalità che è stata descritta molto bene da uno dei maggiori mecenati americani dell'artista, cioè Albert Reynolds Morse. È uno che Gala la conosceva molto bene. In parte tigre, ma anche martire, madre, amante, banchiere, era una miscela curiosa e inaccessibile. La carriera del marito era l'unico scopo della sua vita, tanto che non aveva nessun amico. Il suo vero nome è Elena Dmitrievna Diakonova, nasce in Russia nel 1894. Il padre è un alto dirigente che muore quando lei è ancora piccola. La madre si unisce a un ricco avvocato con la quale la bambina ha un buon rapporto. Insomma, cresce in un ambiente intellettualmente stimolante. Una delle sue amiche d'infanzia è la futura poetessa Marina Tsvetaeva. A 18 anni si diploma, diventa maestra elementare, però ha una salute cagionevole. Nel 1912 viene mandata a curarsi di tubercolosi in Svizzera. Qui conosce un francese, Eugène Grindel, è un giovane biondino di belle speranze e profonde letture. E insieme i due ragazzi condividono la passione per i libri, che leggono assieme, passeggiano nel parco di questo sanatorio, si tengono compagnia, si innamorano con l'entusiasmo degli adolescenti. All'epoca hanno entrambi 18 anni, è il primo amore, quello che ti trasforma in un essere adulto. E qui c'è una trasformazione sostanziale, perché Eugène inventa per la ragazza un nuovo nome, la ribattezza Gala, e da allora lei questo Gala se lo terrà per la vita. Anche Eugène cambia nome, si fa chiamare Paul Éluard, diventerà uno dei maggiori poeti francesi del secolo scorso, e Gala lo sostiene nella sua arte, lo rassicura, gli dice che diventerà un grande poeta e diventa la sua fonte di ispirazione, assume un ruolo che col tempo diventa la sua caratteristica fondante, cioè il ruolo che la consegna alla storia, la musa. Nel 1914 i due ragazzi vengono dichiarati guariti e rispediti, uno a Mosca e l'altro a Parigi, per una separazione che dura poco. Nel 16 Gala raggiunge Paul in Francia e i due si sposano. Nel 1917, l'anno dopo, nasce l'unica figlia di Gala, una bambina, si chiama Cécile. In realtà non è mai stata seguita molto dalla madre, poco se ne sa, perché non entra nella vita di Gala e non l'ha neanche amata probabilmente. E in compenso l'amore tra Gala e Éluard è appassionato, e lui le scrive lettere bellissime, davvero poeta. Non c'è vita senza amore, ed io, mia piccola Gala, ti amo infinitamente. Non credo affatto alla vita, credo in te. Questo universo che è mio e che si mescola alla morte, non può entrarci che con te, e fra le tue braccia che esisto, e dentro i tuoi occhi, fra i tuoi seni, fra le tue gambe che non mi spegnerò mai. Il resto è solo una grande miseria che sogna solo di crollare. Sono incredibilmente triste e confuso. Ho abusato troppo della vita. E ti amo troppo. Lo dico con ardore, con fede, di sogno in sogno. Ho cambiato universo. Sono passato nel tuo. E queste doti poetiche non tardano a far conoscere Paul negli ambienti intellettuali parigini, e i due cominciano dopo la guerra a frequentare i grandi esponenti del nascente movimento surrealista. Sono una coppia che vive un po' alla bohemienne, vogliono superare le convenzioni della morale piccolo borghese del dopoguerra, hanno un patto, quello di concedersi una libertà sessuale assoluta, ne approfittano entrambi. Poi in realtà Paul conosce un giovane pittore tedesco che si chiama Max Ernst, stringe una grande amicizia e lo fa entrare illegalmente in Francia, e Ernst si trasferisce a casa degli Eluard, accetta l'ospitalità dell'amico a tal punto che comincia una relazione anche con la moglie. Eluard manda giù, accetta, diventa un ménage à trois che si protrae per 3 anni con il poeta che vive con uno spirito masochista la vicenda, mentre Gala ci si abbandona con un entusiasmo che rivela la sua profonda natura. La cosa essenziale è per me l'amore. È l'asse della mia vitalità e del mio cervello. La molla che mi slancia in avanti con elasticità e agilità in tutti i movimenti dei miei sensi. Il ménage à trois tra Gala e Paul Éluard e il pittore tedesco Max Ernst arriva al capolinea nel 1927. Ernst ha immortalato Gala in una serie di quadri importanti. Éluard sembra che si sia ripreso per un attimo la moglie tutta per sé, ma è un'illusione che dura molto poco, anche perché arriviamo al 1929, presentazione parigina di un film di Buñuel, il grande un chien andalou, un cane andaluso. Quello con la famosa scena di un rasoio che taglia in due l'occhio di una ragazza. I due coniugi conoscono un giovane pittore catalano che ha scritto la sceneggiatura del film insieme a Buñuel, si chiama Salvador Dalí. Ha un aspetto eccentrico, spesso indossa pantaloni alla zuava, s'appoggia a un bastone, porta lunghi baffi incerati, dipinge quadri dotati già di una tecnica eccezionale, e Dalí è un eccentrico, si trova da subito perfettamente a suo agio nel gruppo surrealista francese. Invita Éluard e Gala insieme alla figlia Cécile, René Magritte e la moglie, a Buñuel, pensate che compagnia di persone strane, li invita a trascorrere l'estate nella sua villa di Cadaqués. È l'inizio di un amore che finirà solo 50 anni più tardi. Dunque, primo incontro a Cadaqués, da lì si presenta a Gala con le ascelle dipinte di blu, si cosparge di sterco di capra a mo' di profumo e si infila un geranio tra i capelli per conquistarla. E allora ho creato una specie di misto di escremento di capra, perché gli escrementi di capra mi eccitano molto sessualmente e pensavo che eccitassero anche Gala, e l'ho mischiato a della colla di pesce. E dopo, cos'altro ho messo? Ho messo anche dell'aspic, un aspic molto ricco di ingredienti che si intravedevano dentro, e così ho iniziato il momento della seduzione, che è andata a finire molto bene. E tempo una settimana eravamo innamorati. Gala però sa vedere oltre queste stranezze, capisce che Dalí è un giovane pieno di talento, di paranoie, è timido, scoppia in una risata nervosa ogni volta che cerca di rivolgerle la parola. Insomma, dal suo punto di vista è teneramente irresistibile. E così un giorno Dalí finalmente ha il coraggio di dichiararsi e lei gli risponde: mio piccolo bambino, non ci lasceremo mai più. In questa stessa occasione Salvador chiede a Gala cosa vuole che lui faccia per lei, e Gala risponde: voglio che mi uccidi. Quando inizia la loro storia, da lì a 25 anni, Gala 10 di più, Salvador Dalì pare fosse addirittura vergine ancora, represso da una educazione molto rigida e anche dal timore di avere, come dire, un oggetto sessuale non all'altezza del compito. Insomma, non era certo un super dotato Dalì. Si dice che si dedicasse solo alla masturbazione e con anche delle tendenze alla coprofilia, insomma un tipo piuttosto strano. Dall'altra parte c'è Gala, che ha avuto molti amanti, è una donna piena di fascino e insomma è una coppia veramente particolare. Di un sol colpo tutti i miei Parsifal erotici si risvegliarono, i nostri denti si urtarono e le nostre lingue si allacciarono. Non era che l'inizio di una fame che ci spingeva a mordere e a divorarci fino in fondo. E così, per amore di Dalì, Gala lascia definitivamente Paul Éluard e lascia anche, ma senza molti rimpianti, la figlia Cécile, che viene affidata alle cure della nonna paterna, e non si vedranno mai più, o comunque rarissimamente, negli anni successivi. E invece il marito, l'ex marito, le rimarrà attaccato, le scriverà delle lettere bellissime che Cécile ha poi pubblicato in un volume. In compenso Gala comincia a occuparsi di Salvador come fosse suo figlio, è una sostenitrice, una rassicuratrice, e insomma questo è quello che sembra leggendo l'autobiografia di Salvador Dalì. Così lei mi levò l'abitudine a delinquere e guarì la mia follia. Grazie, voglio amarti. Volevo sposarla. I miei sintomi isterici scomparvero uno dopo l'altro come per magia. Fui nuovamente padrone della mia risata, del mio sorriso, della mia mimica. Al centro del mio spirito crebbe una nuova forma di salute, fresca, come un bocciolo di rosa. A questo punto Dalì decide, come gesto di riconoscenza, di gratitudine, di firmare addirittura i suoi quadri con il doppio nome Gala Dalì. Eh sì, ormai Gala è la madre di Dalì, è la donna che lo veste, anzi lo traveste, gli concede tutte le sue eccentricità, è lei che calma gli attacchi d'ansia, è lei che gli insegna come si sta nel bel mondo, lo plasma, seguendo l'idea dell'artista surrealista. Insomma, diciamo che quasi crea il personaggio. E alla fine Dalì, anche forse soprattutto grazie a Dalla, si sta avviando verso la fama in peritura. Insomma, la firma Gala Dalì è il riconoscimento di una simbiosi produttiva, direi quasi di un'azienda. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Gala Dalì, che ormai ha lasciato definitivamente il suo primo marito, il poeta francese Paul Éluard, ha lasciato la loro figlia Cécile ed è diventata la compagna di vita, ma direi anche la musa e un po' anche la manager di Salvador Dalì. I due cominciano a vivere assieme già nel 29, si sposano nel 34, perché Dalì non voleva ferire l'amico Éluard fino in fondo, ma alla fine i due sono marito e moglie, e Gala, così già come aveva fatto con Éluard, comincia a regnare sulla psiche di Dalì, che comincia a sottomettersi incondizionatamente alla personalità della sua amata. Insomma, i pantaloni li porta lei. Sentite cosa dice il critico d'arte Federico Zeri. La signora Gala divenne per Salvador Dalì sposa, madre, amica, consigliera, angelo custode. È uno di quei casi in cui un individuo di personalità debole, perché Dalì in fondo era una persona debole e insicura, trova in una donna il compenso a tutte le sue defiance. Lentamente Gala è diventata per lui una sorta di divoratrice. Alla fine egli dipendeva completamente da lei, ed è stata lei a trasformare l'arte sottile, talvolta inquietante, di Dalì in una sorta di fabbrica di immagini, nelle quali vennero riprese e ripetute le visioni che lui aveva avuto fino a circa il 1935-37. Insomma, la moglie madre, la moglie divoratrice, la moglie ambiziosa e, i maligni dicono, anche la moglie avida. E almeno questa è l'idea che gran parte del mondo ha di Gala Dalì. Però è vero che una volta che lei ha incontrato Dalì, che in quel momento era un giovane pittore, era un emergente. Lei aveva deciso che lui sarebbe diventato un genio, ha votato la sua vita e la sua intelligenza al servizio di questo progetto. E Gala, che alla fine ha trasmesso a Dalí l'ambizione di emulare i grandi maestri, è lei che gli dà i mezzi per farlo, è lei che gli fa conoscere le tecniche usate da pittori come Vermeer, è lei che gli insegna dei concetti classici come l'ordine, come l'architettura, l'equilibrio, è lei che gli toglie ogni seccatura. E sappiamo quanto a un artista faccia piacere essere libero da ogni seccatura, è lei che gestisce i suoi affari e permettendo a Dalí di potersi occupare solo della sua arte. Invece di indurirmi come la vita aveva previsto, Gala, con la pietrificante saliva della sua fanatica devozione, è riuscita a costruirmi un guscio che proteggesse la tenera nudità del Bernardo l'eremita che è in me, in modo tale che acquisissi l'apparenza di una fortezza agli occhi del mondo, mentre all'interno potevo continuare a essere morbido, anzi super morbido. Così, il giorno che decisi di dipingere gli orologi, dipinsi anche loro morbidi. Siamo agli inizi degli anni 30 e nel 34, l'abbiamo detto, i due si sono sposati, cominciano ad andare in America dove ci sono molti milionari che stanno celebrando l'artista, che fanno anche acquisti importanti. Alla fine in America ci si rimane fino al 1948, perché in Europa c'è la guerra. I can go anywhere. Quelli probabilmente sono gli anni inebrianti, perché Gala ha costruito il personaggio di Dalí con molta pazienza, con molta determinazione, ha coltivato le eccentricità di Dalí, ha coltivato l'ambizione di lui e di lei, la capacità di stare in società, e comincia a insegnargli proprio a comunicare le sue idee in forma quasi filosofica, e si dice che gli correggesse addirittura anche gli errori di ortografia. Insomma, si dice che a un certo punto lei avesse cominciato proprio a sovrapporsi al pensiero del pittore. Insomma, altro che grande donna dietro a un grande uomo, qua c'è proprio quasi una burattinaia. Salvador Dalí la ripaga con un amore assoluto, lei è la donna ideale nello spirito e nel corpo, la ritrae in molti quadri, dalla Madonna di Portligata, Corpus Hypercubus, Galatea delle sfere, fino al grande Gala con due costolette di maiale in equilibrio sulle spalle. Quando ci stabilimmo a Portligat, dipinsi un ritratto di Gala con due costolette di maiale sulle spalle. Il suo significato, che appresi in seguito, era che invece di mangiare lei, avevo deciso di mangiare il maiale. Le costolette erano in effetti le vittime espiatorie di un sacrificio abortito, come la mela di Guglielmo Tell o l'agnello di Abramo. Non è la prima volta che Dalí lega l'idea della moglie al cibo, a qualcosa da mangiare. Insomma, il rapporto qui è assoluto, totale, direi anche un po' malato. Se Gala diventasse piccola come un'oliva, io vorrei mangiarla. L'unica maniera di conoscere l'oggetto è quella di mangiarlo. È per questo che la religione cattolica è la più perfetta che sia mai esistita, poiché pratica la cerimonia liturgica del mangiare Dio vivo. Il falco e il gabbiano. Nel 58, quando ormai il poeta Paul Éluard è morto, Salvador decide di sposare Gala anche in chiesa. Stanno assieme già da quasi 30 anni, Gala ha 64 anni e Dalí 10 in meno. E il menage ormai è diventato un'unione spirituale, la sfera sessuale è strana, si evolve, diciamo, verso una relazione aperta. Ma secondo me era più aperta la parte di Gala che quella di Dalí. Anche se si dice che Dalí fosse un seguace del candalesimo, una parola un po' complicata, quelli che vogliono esporre il partner al voyeurismo degli altri, cioè di fatto Gala probabilmente continuava ad avere molti amanti, solo che Dalí si divertiva guardando l'amplesso magari dal buco della serratura. Gala, tra l'altro, sì, è generosa. Negli anni 60 Dalí conosce una giovanissima Amanda Lear e lei la accoglie con entusiasmo, e lei, Amanda, trascorre molti anni accanto a questa coppia, però mi sembra che, insomma, Gala tenesse le redini della vicenda ben salde nelle mani. nel 1968 da lì regala a Gala un castello a Púbol in Catalogna. Il castello è di proprietà esclusiva di lei. Quando lui deve andarla a trovare, deve mandarle prima una lettera scritta e attendere di essere ricevuto nel suo castello, cioè peggio di così, insomma. E lei in questo castello riceve uomini più giovani di lei, spesso li paga per fare del sesso e si racconta che abbia arricchito i pescatori del luogo, insomma. Però tutto questo non le impedisce di gestire con attenzione il patrimonio artistico di Salvador Dalì. Lei è fedele a se stessa, al suo personaggio, segue gli affari del marito che ormai è ricchissimo. I detrattori la accusano di aver trasformato l'arte di Dalì in una infinita riproduzione per scopi commerciali, però forse è un giudizio ingeneroso, perché allora cosa dovremmo dire di Andy Warhol? In realtà il rapporto tra i due è assoluto, è quasi alchemico, è ineluttabile. Gala, è vero, è stata il motore trainante dell'arte di Dalì, ha ricoperto un ruolo centrale nella sua vita, però ha avuto degli eccessi che, insomma, una buona moglie forse dovrebbe un po' risparmiarsi. Ha avuto eccentricità, l'equilibrio è stato raggiunto, ma in una maniera quantomeno rocambolesca. Gala muore a 88 anni nel 1982. Dalì la fa imbalsamare e la fa conservare in una specie di cripta nel castello di Púbol. Da quel giorno Dalì non sarà più lo stesso. 7 anni dopo muore anche lui nel 1989 e in quegli anni il castello viene trasformato nella Casa Museo Gala Dalì e, come sempre, prima c'è il nome di lei e poi quello di lui. Ci sono storie di persone che hanno saputo trasformare la loro vita. In questo caso Gala Dalì ha pilotato la vita di uno dei più grandi artisti del Novecento ed è obiettivamente difficile tracciare un confine tra i meriti di lei e di lui. Molto più semplice intuire i demeriti di lei e, diciamo, come dire, le sue debolezze. Comunque i colpi d'ala della coppia sono stati fondamentali per l'arte del secolo che si è da poco concluso. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgaviano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a trovarmi Facebook, Twitter, Instagram, le pagine del Falco e il Gabbiano, insomma ci sono mille modi per incontrarci. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.